Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. In questo episodio, Claudia. Il mio nome è Claudia Dedia. Nella vita studio e mi occupo di discipline dell'arte e dello spettacolo. Ho 18 anni. E la prima cosa che vedo quando esco fuori casa sono i negozi della città. Vivo a Scafati. E una mia giornata tipo si svolge svegliandomi presto, andando all'università, seguendo vari corsi e studiando nelle ore buca. Tornata a casa, seguo corsi di teatro, di recitazione quindi, o di canto, oppure la passo la serata a riposarmi. Cosa più? Mi piacerebbe vivere ovunque posso svolgere il lavoro dei miei sogni. Quando mi chiedono di dove sono, rispondo di essere italiana, essendo nata qui. Sono nata in Italia, ma i miei genitori sono albanesi. Conosco tre lingue, ma ne parlo solo due, italiano e inglese, mentre conosco un po' di albanese. La canzone che canto solitamente in questo periodo sotto la doccia è The Truth Untold dei BTS. Allora, tre ricordi che porterei con me sarebbero: la prima volta che ho vinto una gara di canto, la prima volta che mi è stato detto hai talento e la prima volta che mia sorella ha sorriso dopo un brutto periodo. Direi semplicemente che gli esseri umani sono oggettivamente fisicamente tutti uguali, ma ognuno di loro ha un universo dentro. La cosa più inspiegabile dell'Italia è il fatto, cioè l'ignoranza dell'italiano medio, nonostante comunque l'Italia fino a qualche decennio fa fosse il centro della cultura. Se mi dessero appunto un raggio laser per togliere la cosa più brutta che si trova sulla Terra, al rientro punterei verso appunto l'egoismo generale che vi è in molte persone. Lo straniero in realtà non esiste perché il mondo non appartiene a nessuno, quindi siamo tutti cittadini del mondo. In questo periodo il colore più bello, mi pare, è l'indaco. E verso l'orizzonte la cosa che vedo con più chiarezza è la strada da percorrere.